La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, immancabili anche in questo fine settimana di pieno agosto, quella rosa purpurea, il cinema di Radio 24 che non vi abbandona mai, anche se i film un pochino ci hanno abbandonato, perché questa settimana ne è uscito solo uno nelle sale cinematografiche, ma noi non ci facciamo assolutamente disarmare, perché abbiamo preparato un bellissimo menù per i nostri ascoltatori. Parleremo molto del cinema italiano e segnatamente della commedia italiana, che vedremo nel prossimo autunno con le interviste a Paolo Ruffini, con Massimiliano Bruno, con Vincenzo Salem. Insomma, ci sarà molto molto da discutere di film che verranno, e per cominciare a farci un pochino anche il gusto e la bocca. Cominciamo però con l'unico film che dicevamo della settimana, titolo italiano assai esplicito, Io vengo ogni giorno. Metti le lenzuola nella lavatrice, tesoro. Perché sei vestito come una lesbica? Ho un colloquio importante. Adesso calmati e andrà tutto bene. Perché vuole andare alla Georgetown? Mamma e papà si sono conosciuti lì. Addio Georgetown. Focalizzati sul tuo unico obiettivo possibile. La professoressa ha anticipato il compito. Deve fare una mammografia domani. Hai detto una mammografia? Sì. Perché la fai sembrare una cosa porno? Mammografia. Ciao, Rob. Sì, mi piace. Metti le lenzuola in lavatrice. Che cazzo sta succedendo? E allora, un film di Dan Beers, un film giovanilista con un cast di attori tutti piuttosto giovani, la storia di Rob Crabb, che sta per vivere una giornata indimenticabile, perché insieme al colloquio di ammissione all'università e un appuntamento con la ragazza più bella della scuola, che chiaramente spera possa in qualche modo concludersi bene. Chiaramente invece tutto andrà per il verso sbagliato. E allora, commedia giovanilista, noi ne chiediamo conferma al nostro Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Buongiorno a tutti. Che cosa dire di Io vengo ogni giorno? Verrebbe da dire non ci equivocate, ma invece fatelo, perché è esattamente quello che state pensando. E si inserisce, al di là del divertente gioco di parole, anche piuttosto facile, in un genere molto complicato, molto difficile, che è quello di ricomincio da capo, sostanzialmente, del giorno della marmotta. In ultimo possiamo pensare anche al film con Tom Cruise e Emily Blunt, diretto da Doug Liman, Edge of Tomorrow, Senza domani, cioè una giornata che si ripete all'infinito. Certo è che rispetto a una gloriosa morte in battaglia, in questo caso noi ci ritroviamo di fronte invece a un'idea all'American Pie, cioè di fronte a una donna bellissima, in quel caso era una mora dell'est, in questo caso una biondissima americana, la più bella della scuola, e si ha troppo entusiasmo e si finisce troppo presto quello che si era sognato per una pur breve vita, per una pur breve adolescenza. La sua fortuna, in qualche modo, come succede anche nell'ultimo film di Richard Curtis, in cui il protagonista può tornare indietro nel tempo, e lo fa proprio perché fa cilecca a letto, è che lui ogni volta che va troppo veloce può ritornare indietro e correggere una giornata effettivamente fantozziana. La giornata più importante della sua giovane vita diventa la giornata più estrema. Il gioco e il pretesto narrativo sono facili, la leggerezza esiste, certo è che non ritroviamo Ricomincio da capo, ma come abbiamo detto molto di più American Pie. Bisogna ammettere che la grazia del racconto è un po' di più, però dovete sapere che andate a vedere un film giovanilistico, anche piuttosto stupidotto, però forse per il 7 agosto è quel divertimento minimo che, unito all'aria condizionata, può persino bastare e strappare una sufficienza che in qualsiasi altro periodo dell'anno gli negheremmo sicuramente. Ho degli orgasmi e dopo mi risveglio nella mia stanza. Arriva mia madre e mi trova a letto con un'enorme chiazza bagnata. Non mi credi? Credo alla parte in cui ti svegli con un'enorme chiazza bagnata. Sto avendo dei déjà vu o forse dei disturbi psichici e mi serve il suo aiuto perché sto per svenire. Speravo che non piangesse stavolta. Cosa? Mi alzo la mattina e la vita comincia a prendersela con me. Poi inizio ad avere orgasmi. Per favore! E a rivivere la stessa giornata ora dopo ora. Il sesso non è una cosa da prendere alla leggera. Lo so bene, ho già avuto almeno 7 orgasmi soltanto oggi. Oh cazzo. Farò il bucato da solo d'ora in poi. Sai, mi sono alzato stamattina e sento che potrei fare qualsiasi cosa. Parlo di vivere una vita senza conseguenze. Sono molto sode, Stanley. A me Gabriel piace da morire. Andiamo da questa ragazza. Gabriel! Davvero pensate che io farei una cosa a tre con voi due? Perché no? Aveva bisogno solo di allentare un po' la tensione. Ogni giorno allenta la sua tensione. Alla sua età io riempivo i secchi. Tesoro, tu li riempi ancora i secchi? E allora, Io vengo ogni giorno, il film, abbiamo detto, Il giorno della marmotta. Quest'anno è stato anche l'anno di Edge of Tomorrow, anche quello riviveva continuamente con Tom Cruise la stessa azione di guerra, lì non c'entrava nulla questa situazione di pulsioni sessuali adolescenziali. Allora, parliamo invece, visto che il menù del cinema nuovo in sala si ferma qui praticamente, parliamo insieme di film italiani da vedere nel prossimo futuro, in quello imminente, quello che comincerà dopo il Festival di Venezia a metà settembre, che ci porterà fino a Natale, un viaggio che chiaramente tutte le estati la Rosa Purpurea fa, ma corroborandolo con la presenza degli ospiti, dei protagonisti, cominciando con un volto molto, molto amato della televisione, ma che ha il suo pubblico anche al cinema, quello di Paolo Ruffini. Boris, tu sei andato a trovarlo sul set del suo Tutto Molto Bello. Beh sì, devo dire che sono stato per una volta invidioso di non essere stato sul set come partecipante attivo, insomma non sono di quei critici che ambiva a fare il regista, lo sceneggiatore o l'attore, ma quello era veramente un Luna Park, una villa che sembra uscire dalle intercettazioni di un politico, una villa improbabile con due enormi conchiglione, con dentro una perla estremamente pacchiana vicino a Trigoria a Roma, che è stata arredata per una festa improbabile di un emiro al centro di questa commedia, e in questa festa dell'emiro ci sarà il calcio balilla vivente, il wrestling tra eroi degli anni 80, in particolare televisivi, insomma l'immaginario di quel bambino che Ruffini dentro di sé è rimasto viene proiettato anche con una certa violenza dentro questo film, con tanto di Nina Senica che fa Wonder Woman, il che chiaramente non ci può lasciare insensibili. È stato al centro di tanti e tante polemiche per quanto riguarda il David di Donatello, è stato al centro anche di molte cattiverie. Lui dice di voler rispondere invece con un film buono, buonista, molto all'americana. Lui parla di John Hughes, parla dei Goonies, e devo dire che da quello poco che abbiamo potuto vedere di quello che ha girato e da quel poco che abbiamo potuto sentire è probabile che non sia molto lontano da quel modello, con le debite proporzioni chiaramente, come si è già visto con Fuga di cervelli, non ha ambizioni d'autore Ruffini, ma vuole solo far ridere, quindi siamo molto curiosi, ecco, dopo aver visitato il set più pazzo del mondo, almeno per quanto riguarda il cinema italiano. E allora andiamo a sentire l'intervista che Paolo Ruffini ha rilasciato a Boris Sollazzo sul set di Tutto Molto Bello, a partire dalla presentazione del film. Allora, il film si chiama Tutto Molto Bello, gli attori sono Frank Matano, Nina Senecar, Gianluca Scintilla Fubelli, Angelo Pintus, Pupo, Paolo Calabresi, Chiara Francini, un cast fantastico, bellissimo, parla di due padri che forse uno dei due non si sente adeguato ad esserlo, che è interpretato da me, che mi chiamo Giuseppe Facini, sono un agente delle entrate, negativo, pessimista, e licio al dovere, e incontro Frank Matano che invece è un neopapà ottimista e travolgente, casinista, e da questo incontro nato in ospedale nasce anche qualcosa di più, perché noi stiamo in ospedale, stiamo aspettando che le nostre mogli ci dicano che esce il nostro bambino, e in realtà veniamo travolti da una serie di eventi che ci porteranno a fare una notte totalmente folle, in attesa di poter tornare in ospedale. Noi siamo veramente coinvolti in situazioni paradossali, ci rapisce un emiro, ci porta in una villa e incontriamo Nina Senecar che è l'interprete di questo emiro, che anche lei combinerà dei casini, insomma è un film che poi alla fine si risolve con una nascita, e quando nasce un bambino la prima cosa che ti viene da dire è proprio quella che è il titolo del film, che è Tutto Molto Bello, quindi è un film molto positivo, molto ottimista, è un film che ti invoglia a considerare le cose belle della vita, sminuendo la tristezza e ingrandendo la felicità. Tutto molto bello, ma come si fa a far ridere con un impiegato dell'Agenzia delle Entrate che fa piangere chiunque? Beh, questa è una bella domanda. È lì, vedi, bisognerebbe cercare di trovare anche qualcosa in quel senso. Molto difficile, molto, molto complesso, però ti dico che ho cercato di lavorare anche un po' su di me, no? Io, insomma, mi ero un po' anche stufato, ti dico a te che sei esperto, che insomma, fondamentalmente... Era bello anche divertirsi a provare ad andare a scoprire territori nuovi, no? Allora tu forse mi capisci quando ti dico una cosa più Buster Keatoniana. All'inizio io volevo provare a non sorridere mai, Poi chiaramente non sono Buster Keaton e non ce l'ho fatta, quindi alla fine ho dovuto cedere e declinare un altro tipo di personaggio. Però si può far ridere rimanendo sempre seri, se in contrasto c'hai uno come Frank Matano che è una scheggia impazzita. Quindi riuscire a far ridere con la serietà, con delle cose anche insomma ricche di acredine come quelle che sono le tasse e le cartelle esattoriali, si può fare, almeno si può fare, noi ci abbiamo provato. Senti, con Fuga dei Cervelli l'handicap, adesso diciamo un gruppo di precari un po' sfigati, l'impressione è che quello che tu guardi è sempre una comicità più estera rispetto alla commedia all'italiana. È vero, ma non è assolutamente snobberia, è che forse è un'eccessiva riverenza nei confronti della commedia all'italiana, insomma non mi sento, faccio fatica a dire che faccio lo stesso lavoro di Germi o di Monicelli o di Scola, insomma faccio fatica anche a dire che faccio lo stesso lavoro di John Hughes o di Chris Columbus, però insomma cerco di portare quelli che sono un po' le tematiche che sono nel mio DNA, nella mia formazione culturale. Io da piccino chiaramente era molto più semplice guardare Un biglietto in due, i Goonies o Tutto quella notte piuttosto che L'armata Brancaleone o Amici miei, insomma arrivavano molto prima i film americani e quindi sono vissuto con quella formazione lì e con l'idea di poter rifare qualcosa che potesse avvicinare quel certo tipo di cinema americano a noi. Noi inevitabilmente siamo un po' resti a dire ti amo e a parlare di buoni sentimenti. Ma l'ultima domanda è la Loren e Mastandrea nel prossimo film come cameo? Ma come sceneggiatori, registi, interpreti e tutto qua. Senti, cosa rispondi alle critiche? Dai, degli ultimi giorni l'hai già detto in conferenza stampa. Ma non le accolgo, le abbraccio fortemente, accolgo tutte le critiche volentieri. E io insomma sono molto contento, mi lusinga molto essere al centro dell'attenzione, insomma mi stupisco perché ci sono forse temi più importanti di me, però il fatto che io sia comunque sotto i riflettori fa parte forse del mio lavoro, anche se il mio lavoro forse è altro, no? Però se queste persone stanno bene così, io le abbraccio fortissimo. Intanto non ci sono parolacce in questo film. Però. Questo film quasi no, ma perché non ce n'è, questo film il personaggio non le prevede, non ce n'è bisogno. Però magari io, ma non è che, guarda, anche quella non è una cosa voluta, pensata, è proprio che non stanno nel personaggio. Però io ho pensato molto veramente io vorrei che ci andassero i nipoti con i nonni a vedere questo film. È una cosa, quando io sono andato al montaggio, credimi, mi si apre il cuore a vedere questo film. E poi tutti i film che ho visto con la parola bello nel titolo mi sono sempre piaciuti. La vita è bella, che bella giornata. E questo è davvero, è il film che rappresenta il mio stato di adesso. Cioè è tutto molto bello, anche avervi voi davanti. La rosa purpurea. Cantava così Carmen Consoli qualche anno fa, confusa e felice, è stato un modo di dire azzeccatissimo, al di là della canzone che è rimasta nelle orecchie di molti, ma quel modo di dire confusa e felice, confuso e felice, è entrato a far parte un po' del gergo italiano e diventa anche un film questo modo di dire, è un film che si pluralizza e diventa confusi e felici, lo dirigerà, lo sta finendo di montare in realtà, proprio in questi giorni, Massimiliano Bruno, fra i maggiori sceneggiatori della commedia italiana degli ultimi anni, suoi molti dei grandi successi del botteghino della commedia italiana, ma anche al suo terzo film da regista, dopo Nessuno mi può giudicare e Viva l'Italia, arriva questo Confusi e felici. Massimiliano Bruno è in collegamento con noi, ciao Massimiliano, benvenuto alla Rosa Purpurea. Ciao Franco, grazie, bentrovati in questo agosto caldissimo, sono qui che mi sto rilassando davanti alla piscina, non parlavo di cinema da qualche giorno ed ecco qua. Sentivi la mancanza, diciamo la verità. Chiami tu. Ecco. Allora, Max, è un bel ritorno, ancora con un cast collettivo, come ti piace fare nei tuoi film, mettere insieme tanti artisti della vostra generazione. Tra l'altro nel cast ci sei anche tu, che a tua volta interpreti un personaggio. Però ricordiamolo, il cast: Claudio Bisio, Marco Giallini, Anna Foglietta, Max Bruno, Paola Minaccioni. Insomma, è un cast... Rocco Papaleo, infatti, io adesso mi ero fermato per non fare proprio tipo la formazione dell'Italia, ma effettivamente sono tanti, e tra l'altro sono tutti importanti alla stessa maniera, perché la storia, adesso magari raccontacela tu, ma insomma è quella di un Bisio psicanalista che finisce psicanalizzato. Ebbene sì, è la storia di questo psicanalista un po' cinico, che non ha una compagna, che ha un divorzio alle spalle, senza amici, è un po', insomma, come dire, un cattivo ragazzo, che è un po' superficiale, che un giorno scopre di avere un problema di salute molto serio, scopre che sta per perdere la vista definitivamente. Questa cosa lo manda in depressione, e quindi noi raccontiamo la storia dei suoi pazienti che cercano di fare uscire il dottore dalla depressione. Quindi praticamente diciamo, cambiamo il punto di vista e vediamo come dei pazienti cercano di far guarire il dottore. In questo grande percorso chiaramente c'è tanta comicità, perché come tu sai a me piace, insomma, affrontare la commedia prenderla un po' di petto, e quindi in questa storia surreale e incredibile Claudio Bisio si ritrova sta mandria di malati di mente. Ognuno di loro gli propone di fargli vedere tutte quelle cose belle che tra qualche mese non potrà più vedere, perché fisicamente non potrà più farlo. All'interno di questa storia ci sarà anche una storia d'amore meravigliosa con Anna Foglietta, che è la sua segretaria personale, che si rivela essere una donna meravigliosa che lui in realtà non aveva mai visto. Quindi in soldoni è la storia di un uomo che nel momento in cui sta per perdere la vista in realtà la acquista veramente, ma è una vista interiore, una vista diversa, una vista molto più profonda. Senti Max, quanto ci sarà questa volta di uno sguardo che vada un po' più su una società intesa in senso fra molte virgolette politico, che in Viva l'Italia c'era assolutamente? Questa volta stai più sui tuoi personaggi, o comunque c'è un sottofondo, un background che racconta un po' la nostra Italia? Questa volta è più un racconto sull'animo umano, un racconto su quanto certe volte siamo accecati dall'inutilità della routine di tutti i giorni e non puntiamo nella vita sui valori reali, che sono il rapporto con una donna, con le persone. Quindi è più un'introspezione su noi uomini e mezzi criceti, che giriamo nella ruota senza fermarci mai, finché un bel giorno non ci prende, come si dice a Roma, il coccolone e ci stramazziamo al suolo. Allora è un modo per dire: fermiamoci un attimo e cerchiamo di apprezzare tutto quello che riguarda la relazione, che sia amorosa, che sia di amicizia, che sia anche il contattare ogni forma d'arte. Nel film, ad esempio, Claudio Bisio riesce sempre nel caffeggio del film, che comunque sembra che sto facendo sto tono serio, invece il film è un film comico. Comunque sono delle scene in cui lui viene portato con la forza a vedere una mostra da Anna Foglietta insieme al buon Marco Giallini, e ci sta un momento in cui Anna Foglietta lo porta a vedere Caravaggio, e lui scopre di non aver mai fatto attenzione a Caravaggio, a Van Gogh, scopre il bello dell'arte. Poi chiaramente quando la Foglietta gli dice: beh, adesso andiamo a vedere Apollo e Daphne, lui gli dice: tutte e due? Oppure c'è io che dico: sto guardando un quadro di Caravaggio che è la Madonna dei Palafrenieri, e Giallini dice: ma che me frega di vedere questo quadro, nel senso che ci sono varie sfaccettature di tutti questi personaggi assurdi che non hanno nessun interesse verso l'arte. Io, avendocelo, l'ho inserito in questo film di questi maledetti mostri, che alla fine invece si scopre che abbiano un grande cuore, che hanno un grande cuore. Senti Max, guardando un backstage del tuo film, una visita sul set che si può trovare su internet, mi ha colpito una battuta di Claudio Bisio. A parte che voi è la prima volta che vi trovate, e vi siete trovati molto, lui ha speso grandi parole di elogio per te. È la prima volta, sì, lui aveva già fatto due film che ho scritto io. Esatto. però come regista, insomma, sul set forse in carne e ossa vi siete un po' scoperti, però lui a un certo punto dice, insomma, sotto sotto c'è anche un aspetto che potremmo definire Benvenuti al centro, perché lui interpreta un milanese proprio molto doc buttato lì nella grande mischia romana. È la parte più divertente del film, è quando lui, che è un borghese, un alto borghese milanese, è costretto ad avere a che fare con Marco Giallini, che è uno spacciatore della periferia di Roma, con tutta la simpatia che può avere in una commedia uno spacciatore della periferia di Roma. Quindi Giallini gli propone il suo stile di vita, quindi lo porta subito nella trattoria romanaccia, dove ci sono tutti che parlano romanaccio, dove c'è il canzonettista che canta le canzoni col pecorino, la caciotta, tutte queste cose qua, e lui, Claudio Bisio, rimane sconcertato. Il secondo passo lo porta in un club privé dove c'è una certa Dragomira che si vuole, insomma, divertire un po' con Claudio Bisio, e Claudio scappa da questo postaccio, salvo poi invece provare a proporre Bisio a Giallini qualcosa di più alto. C'è una scena molto divertente nel film dove loro due vanno a vedere una pomeridiana di un concerto di musica classica dove suonano Rachmaninoff, e a un certo punto a Marco Giallini squilla il cellulare perché lui non l'ha spento, perché è pomeriggio e gioca la Roma, e quindi lo chiamano gli amici per dargli il risultato della Roma. Lui pensa, in realtà è la sua compagna che aspetta un bambino, che gli dice di andare lì da lui, e in quel momento c'è una signora molto anziana che si gira e gli dice troglodita. Giallini si avvicina e le sussurra all'orecchio: oh, sei morta da 6 anni e ancora non te l'hanno detto. E quindi è il modo di relazionarsi cafone, un po' romano, che è un po' nel cliché romano, che viene poi in qualche modo respinto da Bisio fino al finale del film, in cui anche Claudio Bisio capisce che in fondo c'è del buono là dentro. In questo senso può esserci qualcosa di Benvenuti al centro, certo, nel senso, è qualcosa di richiamo tra due, chiamiamole, etnie differenti, certo, cioè, certo. Il coatto romano è... Sì, fra due poli che si attraggono, si amano e si odiano, però non possono fare a meno uno dell'altro, diciamo così. Esatto. Poi alla fine. Invece c'è qualcosa del sud nella musica, perché so che ha una parte importante la musica salentina, la pizzica, la taranta. Sì, perché c'è una scena in cui loro vanno a festeggiare la notte della taranta. Sai che tu sai meglio di me che la pizzica e la taranta hanno preso piede negli ultimi 15 anni, partendo dal Salento, ma in tutta Italia, in molte città ci sono queste feste della pizzica, le chiamano la notte della taranta, anche se la vera notte della taranta credo che si svolga a Melpignano. A Melpignano, assolutamente, esatto. Quella dove andava anche Stewart Copeland, no? Esatto. I primi anni. Grandissimi musicisti che si sono fatti, però la fanno anche a Roma. Cioè la serata di pizzica, così, no, ho pensato di ricrearla, l'abbiamo girata a Colle Oppio in un posto, una location naturale meravigliosa, e a un certo punto loro ballano tutti quanti questa danza. Sai, si dice che ti ha pizzicato la tarantola e quindi ti sei innamorato, no? Ed è proprio la metafora che ho usato io, perché è la scena, diciamo, del bacio, è la scena romantica del film, l'ho usata proprio con quella musica di sottofondo molto bella che a un certo punto svanisce e appare una musica romantica dove finalmente Anna Foglietta e Claudio Bisio possono darsi il tanto agognato bacio. Tanta roba, tanta roba. Saranno 25-30 anni. Fantastico. Allora, ascolta questa sorpresa che ti abbiamo preparato. Cioè, mettiamo che io e suo figlio. Che come gli ammazzo? Massimiliano? No, per carità, quello Massimiliano. No, guarda, chiamamma. Cioè, io avevo pensato. Ugo. Come tuo padre? Sì, ma no, per mio padre. Cioè, a me non mi importa proprio. No, è proprio perché così io Aglione venne più educato. Ma perché Massimiliano? Massimiliano venne scostumato. Cioè, lo so, è proprio un uomo che è scostumato. Perché Massimiliano, io sento sempre, se Massimiliano sta vicino a mamma, su Aglione, e si muove perché è a qualche parte. A mamma prima che lo chiama, tu, Massimiliano! Aglione già gli sta addosso, che sta facendo. Non ubbidiscono perché è troppo lungo. Invece Ugo, poi lo chiama Ugo, come sta vicino a mamma, se sta per muovere, Ugo! Aglione non aveva nemmeno tempo. Capito? Può fare un passo, però Ugo ha detto una per forza, perché lo sento un uomo. Al massimo, proprio, ecco, volendo, mi chiama Ciro, è più lunga, ma proprio per non fare troppo represa, cioè, però Ciro da un tempo pigliano un po' l'aria. Ma allora è perché ti chiami Massimiliano che sei il monello della commedia italiana? Mi hai reso un agguato perché mi hai fatto riascoltare la voce di Massimo Troisi, che è una delle delle persone, degli artisti che mi ha più colpito quando ho cominciato a fare sto lavoro, quando ero più piccolo e tutto quanto. Abbiamo una data in comune, il 4 giugno, che è il giorno in cui sono nato io e in cui è scomparso lui. È una cosa molto particolare per me e io lo amo tantissimo. Sai quante persone mi hanno fatto questa battuta su Ugo e Massimiliano? Eh beh, immagino tante. Sì. Tantissime. Immagino tante. Io ti devo ringraziare perché mi hai regalato un bel momento. Ma guarda, perché poi abbiamo detto qui proprio il diventato lo scrittore delle commedie italiane più salaci, quello che ci fa ridere anche con la battuta senza mai avere la paura di fare il politically correct, allora forse sarà perché si chiama Massimiliano. E allora Massimiliano Bruno, lo ricordiamo, quella rosa purpurea, ma soprattutto dal 30 ottobre nelle sale cinematografiche italiane con Confusi e Felici. Grazie per essere stato con noi e buon Ferragosto. Grazie a voi, mando un abbraccio e viva voi e viva Franco D'Assisi. Allora noi giochiamo insieme, grazie anche a Massimiliano Bruno che ci ha dato l'evviva, che insomma serve sempre. Prima traccia del nostro game di oggi. Non ci credo, siamo nelle cantine. Dovevi portarci fuori, non ancora più all'interno. Quello che faccio. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Se avete già indovinato che film si tratta, scriveteci titolo e vostro indirizzo. Provate a vincere una copia in Blu-ray di questo film. Più tardi vi daremo un'altra possibilità. Adesso linea alla regia, fra poco torniamo insieme e parliamo di altri film, altre commedie che arrivano nel prossimo autunno. Sarà con noi Vincenzo Salemme. La Rosa Purpurea. E la Rosa Purpura continua il nostro viaggio nella scoperta delle novità al cinema della prossima stagione autunnale. Del secondo semestre 2014 ci spingeremo anche un po' oltre. Oggi incontriamo un personaggio molto caro al pubblico italiano, molto popolare, come Vincenzo Salemme, che dopo aver portato con grandissimo successo nei teatri di tutta Italia dal 1995 la sua commedia E fuori nevica, l'ha fatta diventare un film. Un film che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 16 ottobre di quest'anno. E allora abbiamo incontrato Vincenzo Salemme per farci raccontare un po' quella che è la lavorazione, le differenze, le somiglianze di questo film alla sua grande commedia di successo, partendo da quello che è il suo personaggio. Lo ascoltiamo tra poco dopo una clip. Signor Caradei, tra tre giorni c'è la lettura del testamento di sua madre e lei deve tornare a Napoli. Un artista non lascia la nave. Un artista? Per dividere il patrimonio, la casa di vostra madre, dovrete convivere. Con Cicco? Sta partendo la funicolare! Questo non è la funicolare, questo è l'ascensore, serve a salire e a scendere. Ma perché la funicolare? Pensano suo fratello è malato, ha una forma di schizofrenia simile alla paranoia ossessiva. Sto morendo! No, tu devi morire! Un misto di autismo e bipolarismo, quasi un'epilessia. Una patagole, zio. Questo personaggio sta lontano da casa, dalla famiglia, per 30 anni. Morendo la mamma, è costretto a tornare e a fare i conti appunto con la famiglia, con le responsabilità, perché in realtà il mio personaggio è il classico maschio che non cresce, è immaturo, per cui però ha una sua piacevole umanità, come i maschi napoletani hanno una femminilità. No, Troisi aveva un modo di guardare le donne che era molto femminile. Lo stesso Totò, se tu vai a vedere, accarezza la donna quando la guarda. È difficile che guardi la donna spogliandola. Negli ultimi anni la commedia italiana ha perso un po' le caratteristiche di comicità fine a se stessa, comicità sketch, diciamo così, e si è un po' più riappropriata delle tematiche, no? Come la vedi, insomma, questo momento della nostra commedia, che è ricominciato a essere anche molto numerosa, proprio come numero di film nelle sale? Ma guarda, se tu vai a vedere il cine panettone dei Vanzina, alla fine, tu te lo rivedi adesso, c'ha anch'esso elementi di, non di critica, ma di lettura del sociale, per cui la commedia legge sempre il sociale, o che legga l'anima del sociale, o che legga proprio la materialità del sociale. E la commedia è un linguaggio che ci è molto consono, proprio perché siamo il paese dei contrasti. Sicuramente ci racconterà una commedia come mai l'Italia è uscita dai mondiali, e se tu fai un film del genere racconti i contrasti tra Buffon e Balotelli, è una commedia. Ragazzi, noi in Italia è successo che abbiamo fischiato l'inno italiano. Ma io credo che nella storia dell'umanità non esista un esempio simile. e nessuno si è preoccupato di questo. Non c'era presidente di consiglio o cose che si fossero. Io mi sarei messa nel campo a urlare che cazzo state facendo, diciamo la verità, no? Eppure non è successo. Per cui siamo la nazione della commedia. Abbiamo veramente tanto, tutto. Abbiamo una cultura, 45% del patrimonio culturale mondiale, tutto nel nostro paesino. Ma come si fa a sopportare una cosa? È un paese amatissimo. Quando dici che sei italiano, ammazza che figo, no? Un po' come quando dici in Italia che sei napoletano, c'è chi schifa i napoletani, ma c'è pure chi dice ammazza napoletano, questi soffrono. Ma non è vero niente, cioè non... Poi le persone devono fare i conti con questa responsabilità. La commedia ci dà modo di scaricarci un po' di queste responsabilità. E invece a livello di passaggio dal teatro al cinema di questa tua commedia, quali sono gli elementi non tanto narrativi quanto proprio di struttura del racconto e tutto che hai tenuto, e cosa hai aggiunto invece per farlo diventare cinema? Allora, ho tenuto i must della commedia, che erano la pizza, ora vi dico così, voi non avete visto il film, ma chi conosce la commedia lo sa che cosa voglio dire, è il pezzo dello spagnolo. Quelli sono due pezzi che nella commedia la gente... C'è stata una sera che hanno urlato, per favore, un signore anziano al piccolo Eliseo di Roma, per favore, smettetela, mi sto sentendo male, stavo sentendo male. Male, c'erano il teatro il giorno dopo, era tutto fazzolettini di carta per quanto ridevano e piangevano. Quindi queste due cose non le ho potute togliere, le ho un po' trasformate, ma non le ho potute togliere perché rimarrebbe deluso chi conosce la commedia. Però ho aggiunto il fatto che in teatro ovviamente la costrizione è anche fisica, perché stanno in casa, il teatro ha un'unità di luogo che al cinema... non devi avere, poi è una scelta, però insomma non sei costretto, per cui a teatro erano costretti in casa. Qui ho cercato, attraverso un linguaggio diverso cinematografico, di dare il senso della costrizione, dell'affanno dei due fratelli che credono di essere normali con questo picchiatello che li mette in croce, anche per strada, sulla spiaggia piuttosto che al museo, piuttosto che in chiesa. C'è sempre questo senso di affanno dei due fratelli che si sentono esaminati da uno che loro considerano uno, diciamo, con meno, un deficiente, e invece quello è molto più intelligente di loro. Questa è la che ho cercato. Ti chiedo un'altra cosa, proprio radici teatrali. È chiaro che tu l'hai messa sia a teatro che al cinema, in commedia e in commedia comica in certi momenti. Però io, guardando un po', ti chiedo, c'è secondo te più delle tre sorelle al maschile di Chekhov, no, oppure c'è qualcosa anche del fatalismo di De Filippo? Posso dirti, secondo me, lo so che no, non vi deve sembrare presuntuoso, dico solo che cosa secondo me c'è, perché c'è a Napoli, gli inglesi e la cultura inglese, quel fatto dei fratelli, quel tipo di leggerezza dei rapporti che sono tutti i nonni, gli zii. Se tu vedi la cultura anglosassone, il racconto del cinema inglese soprattutto e americano, i nonni, le cose, non c'è tutti questi pesi, sono solo vissuti, raccontati. Ecco, la cultura napoletana, che ha una forte influenza inglese, perché nell'Ottocento c'è stata una colonia inglese, esatto. Secondo me nel teatro noi siamo napoletani, siamo molto simili agli inglesi, anche perché gli attori napoletani sono gli attori più bravi del mondo. Abbiamo sfiorato adesso il tema degli attori napoletani e prima hai parlato di Massimo Troisi. C'è appena stato anche qui in questo caso un ventennale, guarda caso. Sì. Quanto manca a te, quanto manca al teatro e al cinema napoletano un personaggio così? Allora, Troisi, per quanto mi riguarda, mi manca il fatto che ho conosciuto tutti e non ho conosciuto lui, non ho fatto in tempo, quindi mi manca la conoscenza personale. Quanto manca Troisi nella cultura, secondo me è importante, perché lui aveva una forza comica unita però ad un impegno sociale. Cioè lui, quando faceva delle cose, era un uomo che tu sentivi che si preoccupava per i poveri, per la povera gente, per gli emarginati. Era un uomo, un giovane rivoluzionario. Lui parlava di chi non aveva, dei disoccupati, dei pensionati, ma lo faceva con una forza molto più potente di tanti che si riempiono la bocca, tanti intellettuali pieni di prosopopea, che invece allontanano il popolo dalla politica. Lui aveva una se ci fosse adesso uno così, avvicinerebbe molto di più le persone, non alla politica intesa nel senso dei partiti, io intendo politica, intendo dialettica tra popolo e Stato. È questo che bisogna ritrovare in Italia, non i partiti devono di nuovo, i partiti non fanno altro che dire, ah, dobbiamo di nuovo entrare, ma chi siete? È la gente che deve arrivare di nuovo allo Stato. E quello che, ma quella è la politica nobile, quando la gente poi si fa rappresentare dai partiti piuttosto che dalle associazioni. Ecco, Massimo Troisi, se posso dire, aveva una forza politica comica che purtroppo manca. Vincenzo Salemme alla Rosa Purpura per raccontarci in anteprima il suo nuovo film E Fuori Nevica, che sarà nei cinema italiani dal 16 ottobre. Ovviamente avremo tempo di parlarne quando sarà il momento. Adesso giochiamo ancora insieme perché c'è da sentire la seconda e conclusiva traccia del film misterioso di oggi. Se risveglierai quella bestia, distruggerà tutti noi. Potete dare ascolto a questo oppositore, ma io vi prometto una cosa. Se riusciremo, tutti condivideranno le ricchezze della montagna. La Rosa Purpura è @radio24.it. Scriveteci il titolo del film, scriveteci il vostro indirizzo privato, provate a vincere una delle copie in Blu-ray in palio per questo film che sveleremo la prossima settimana. La Rosa Purpurea. E nella quarta parte della Rosa Purpurea, come sempre, affrontiamo i film da vedere sul piccolo schermo, a partire dalla risoluzione del nostro DVD game in un video della scorsa settimana, che suonava pressappoco così. Governatore, posso disturbarla un momento, signore? Che vuoi, ecco, deve solo mettere una firma qui, governatore, qui sotto. Sì, sì, dov'è la fregatura? Ecco, con l'entrata in vigore di questa legge possiamo far fuori 200.000 acri di territorio indiano che abbiamo decretato pericoloso per loro attualmente. Sono così infantili. Si trattava di Mezzogiorno e mezzo di fuoco, era il film che abbiamo scelto la scorsa settimana, che arriva in un video dal suo lontano 1974, 40 anni dopo, sbarca su un video anche ancora in Italia, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Blazing Saddles, il terzo film di Mel Brooks, del quale chiacchieriamo con Film TV e con gli amici della redazione del settimanale di cinema. Con noi c'è come sempre Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, parodia geniale, assolutamente di culto di tutti i luoghi comuni del genere western, sin dal titolo che fa il verso al capolavoro di Fred Zinnemann. Questo film di Mel Brooks con Gene Wilder compie quest'anno 40 anni e Warner lo festeggia con l'uscita di un Blu-ray che soffre d'udito, di audio per problemi di anzianità, ma che ha una pregevole tenuta video. Il disco singolo, oltre all'esplosivo commento d'accompagnamento del regista, contiene un dietro le quinte in cui Mel Brooks parla rotta di collo, scene eliminate, l'episodio e il pilota di una serie che presenta un incipit analogo a quello del film. Senti Bart, voglio che mi fai un favore. Non devi uscire di qui stamattina. Non puoi accattivarti quella gente, qualsiasi cosa tu faccia. Non ti accetteranno mai. Non preoccuparti. Con le buone o con le cattive, riuscirò a farmeli amici. In bocca al lupo! E questo allora è il nostro game della scorsa settimana. Ricordo che gli ascoltatori che hanno indovinato verranno poi avvisati dalla nostra segreteria. E passiamo invece a una novità in un video. È stato uno dei film più apprezzati dalla critica della stagione appena conclusasi per quanto riguarda l'Italia, un film che entra nel vivo della Cina contemporanea. Si intitola Il tocco del peccato. Perché stai lasciando Guangzhou? Non c'è futuro nel fare i vestiti. Quando vendesti la miniera di carbone dicesti che avremmo avuto la nostra parte. E allora che vuoi? Ti denuncerò alle autorità. Ieri ho ricevuto i tuoi soldi. E allora? Io non li voglio. Al momento sono 35 le vittime accertate. Sei tu, Xia Yu. Sono la moglie di Zhang Yulang. Ci sono tanti clienti? Certe volte sì, e certe volte no. Devi discutere dell'economia del villaggio davanti a tutti noi! No! Sì, il film comincia così: un uomo in motorino viene bloccato da alcuni ragazzi che, armati di accetta, lo vorrebbero rapinare. Lui estrae una calibro 45 e li fa secchi con fredda determinazione. È solo l'inizio di un affresco episodi intrecciati della Cina contemporanea, un film dai connotati tanto tragici da virare in una freddissima ironia, realizzato dal maestro cinese Jia Zhangke, in controtendenza rispetto ai suoi film precedenti. Vi ricordo solo Il Leone d'Oro Still Life del 2006. Qui siamo di fronte a un romanzo criminale, un film tra il pulp e il neorealismo, che come i film precedenti coglie mirabilmente i paradossi della modernità forzata della Cina. Il DVD non è ricco, ma spesso basta il film, e questo è il caso. Assolutamente, questo è proprio il caso, ricordiamo Il tocco del peccato. E noi invece adesso ci inoltriamo sui palinsesti televisivi per dare un'occhiata, fare un paio di scelte fra quello che viene proposto dai palinsesti appunto della prossima settimana sul piccolo schermo, con uno schema un po' particolare per quest'estate, cioè quello di scegliere un genere, un tema, un argomento e vedere un po' che cosa ci offre il palinsesto. Oggi, Giulio, parliamo di fantascienza. Sì, parliamo di fantascienza e di, nello specifico, di fantascienza degli anni 70. Partiamo da martedì 12 agosto alle 15.45 su Rete 3. La nostra prima segnalazione è Capricorn One. La missione su Marte è fallita, la NASA ne simula una in maniera fraudolenta, ma nessuno deve sapere la verità. Una bellissima pellicola cospirazionista diretta da un abile e geniale artigiano del cinema d'azione, un film che è frutto delle teorie sull'allunaggio mai avvenuto e allunaggio come messa in scena e delle paranoie del periodo del Watergate. La seconda segnalazione è mercoledì 13 agosto su Removie alle 23, L'uomo che cadde sulla Terra. David Bowie ha le sembianze di un uomo, ma è un alieno in cerca d'acqua per salvare il proprio pianeta. Diventa un imprenditore molto ricco, ma ha anche molta malinconia di casa. Fantascienza umanista ed esistenziale, girata con gusto psichedelico, e una narrazione decisamente evocativa da Nicholas Roeg, che è direttore della fotografia e regista assolutamente da riscoprire. Queste allora le scelte di fantascienza di Phil TV. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E allora, dopo i film da vedere sul piccolo schermo, trasferiamoci idealmente anche nel tempo al 24 ottobre, facciamo finta di essere a San Marino, che è sempre una località incantevole, perché quest'anno viene rilanciato in maniera molto forte il San Marino Film Festival, è un festival internazionale, San Marino International Film Festival, dal 24 ottobre al 1 novembre. E soprattutto un nuovo direttore che vuole rilanciarlo appunto in questa chiave internazionale. Stiamo parlando di Maurizio Zaccaro, regista cinematografico di fiction e di film per la televisione, e appunto alle prese per la prima volta con il ruolo di direttore di festival. Il festival a San Marino il 24 ottobre si aprirà con un concerto di Emir Kusturica, anzi con due concerti nell'arco della settimana del grande regista Emir Kusturica, e poi ci sarà dentro davvero tantissimo materiale cinematografico, fra gli omaggi, fra quello che appunto è il cinema da vedere o da riscoprire. Ne abbiamo parlato in questa intervista con Maurizio Zaccaro. Maurizio Zaccaro, per parlare di un festival non nuovo anagraficamente, ma nuovo in tutto il resto, nel vestito, nei concetti, nel modo di portare il cinema al pubblico, il Festival di San Marino. Intanto partiamo da cosa significa oggi fare un festival, perché si dice spesso il panorama festivaliero è già bello, bello pieno, e quindi qual è la cosa che ti ha fatto pensare che valesse la pena a San Marino di creare un grande festival, perché come vedremo stiamo parlando di un festival molto ambizioso. Sì, è un festival ambizioso, ma sai, io non essendo del mestiere, nel senso che non faccio il direttore artistico dei festival, faccio il regista, l'ho affrontato un po' a muso duro, tipo per me è come un film da dirigere, e di conseguenza non sto facendo un lavoro diverso da quello che faccio normalmente, se non che mi devo confrontare con le leggi di mercato, con i film se escono di qui, se non vanno di là, anche perché abbiamo un po' quella, la nuova veste che dici tu, è la nuova veste internazionale. Prima non era un festival internazionale, da oggi è diventato il San Marino International Film Festival, e non a caso in quest'ottica qui abbiamo anche fatto fare la sigla ex novo da Bruno Bozzetto, dallo studio Bozzetto, che la possono trovare tutti sul sito. Noi stiamo impostando il festival, ti dico noi perché c'è anche la Marina Massironi che lavora con me, ci sono altre, non sono da solo, c'è Pier Giorgio Gai che si occupa, che è un altro regista che si occupa della sezione scuole di cinema, per cui vedi Io ho cercato già di portare a San Marino delle alleanze, delle complicità, delle amicizie, insomma delle persone con le quali creare un gruppo e portare avanti questo discorso insieme. Potremmo definirlo quasi un festival dei registi in questo senso, no? E degli attori, perché con la Marina Massirone, certo. Sì, dei registi e degli attori, è un festival che, guarda, il mio sogno è farlo diventare caldo, accogliente, non formale, con degli invitati, delle persone, sì, che chiamiamo guest of honors, d'accordo, ma insomma sono anche delle persone che vengono lì per parlare, incontrare poi i giovani ragazzi con il quale il San Marino Film Festival da sempre si relaziona anche dalle edizioni precedenti, i ragazzi delle scuole, no? E nell'ambito appunto di questo festival stiamo creando i due settori paralleli. Una è l'istituzione di una grande scuola di cinema nella Repubblica di San Marino, che abbiamo appunto già mandato avanti da un anno, che dovrebbe partire nel 2015 all'interno dell'Università di San Marino, Dipartimento di Comunicazione. E l'altra parte, che è forse quella veramente la più ambiziosa, è portare il mercato del cinema e della TV uniti insieme questa volta a San Marino. Senti, parliamo invece di film. La Locandina, che c'è, è già in giro, molto bella tra l'altro, recita nomi di livello mondiale. Voi avrete un concorso di film diciamo internazionali, e poi quali altre sezioni e a che titolo questi grandi maestri che annunciate in Locandina arriveranno? Beh, noi abbiamo annunciato quelli che sono, come dicevo prima, gli ospiti importanti, gli amici. Beh, Claudio Cardinale, voglio dire, inaugurerà, ma non viene neanche nella veste di madrina classica del festival, viene a San Marino, perché a San Marino quest'anno vogliamo dare un segnale anche lì di conoscenza, di divulgazione di film che difficilmente poi i giovani vedono, e quindi vogliamo fare una retrospettiva bella, consistente, sia per quanto riguarda il cinema che per la televisione, su Luigi Comencini. E allora, alla presenza delle figlie di Comencini e alla presenza di Claudio e Cardinale, quella sera lì proietteremo La ragazza di Bube, che è un capolavoro appunto di Comencini, e mentre entrerà Claudia, ti posso dire, ci sarà un altro maestro, un compositore, che eseguirà un brano famosissimo della ragazza di Bube, che era di Carlo Rustichelli. Se dopo esce la Cardinale, entra Custurizza, Emir Custurizza, con due concerti, non uno, addirittura due concerti. Uno lo faremo a San Marino e uno lo faremo nel bacino qua, al quale noi ci rivolgiamo come pubblico, quindi che va da Gabice a Cesena, a Forlì, insomma in questa zona qui. E la domenica Emir terrà anche una masterclass per i giovani sul suo cinema, e allora in quell'ambito proietteremo anche uno dei film di Custurizza, adesso da decidere. Ti posso dire che potrebbe essere, ti ricordi di Dori Bell, come Papà Vantaggio a fare, o qualcosa così. Ermanno Olmi ci raggiungerà a San Marino, e con Ermanno Olmi stiamo studiando appunto una giornata molto particolare legata al lavoro che lui ha fatto ultimamente, che appunto tornerà in pratica, un film sulla Prima Guerra Mondiale. In ambito internazionale abbiamo David Warren. David Warren è il nome forse conosciuto da pochi, però i film che ha fatto sono conosciuti da molti, tipo Desperate Housewife, Casalinghe Disperate, che noi conosciamo a meraviglia, oppure Ugly Betty e tanti altri. E tanti altri ospiti, per quello Roberta Torre, Carlo Lucarelli. E allora, San Marino International Film Festival dal 24 ottobre al 1 novembre, appunto in quel della città enclave nella Romagna, San Marino appunto. E allora, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro programma, non ci resta che darvi appuntamento alla prossima settimana con le novità al cinema, con l'inizio dell'analisi di quella che sarà la Mostra del Cinema di Venezia. Parleremo di Settimana della Critica e di Giornate degli Autori, e poi continueremo il nostro viaggio nel cinema da vedere durante la stagione autunnale per quanto concerne appunto il cinema italiano. È tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Franco D'Assisti.